Ciao. È la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto. As it should always be, the foundlings are the future. This is the way. This is the way. This is the way. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. No, io sono tuo padre. È sempre efficiente lanciafiamme. Il mio preferito. Benvenuto sulla terra. Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà. E buonasera a tutte e tutti, ben ritrovate e ben ritrovati a una nuova puntata alle porte di Tannhäuser qui su Radio Wombat 13:59 onde medie o altrimenti il web. RadioWombat.net ovviamente il sito. Beh sì, questi due sono i canali essenzialmente nei quali potete trovarci. La posta è postawombat@insiberia.net, dominio quanto mai appropriato oggi. Sì, assolutamente. Esatto, anche perché fa un bel po' di freddo nella Wombat Tana, nella Wombat Regia. Ma si sta bene, perché comunque ci ha lasciato il posto nervature e quindi ci ha riscaldato i microfoni e anche l'ambiente. E quindi siamo pronte per cominciare con una nuova puntata delle porte di Tannhäuser. Allora, dopo lo stop natalizio che si è prolungato per inizio di gennaio, ripartiamo. Avevamo promesso tante cose che arriveranno prima o dopo, ma attendete, viviamo la giornata noi, quindi ma sì. Quindi oggi freddo, fa molto freddo, molto vento, si dice che farà ancora più freddo nei prossimi giorni, quindi abbiamo pensato bene o male di parlare un po' di quello che abbiamo letto durante queste vacanze invernali, per chi ha fatto le vacanze, perché per esempio io non è che abbia fatto vacanze, però insomma, chiamiamole così, insomma in generale qualcosa magari legato alla neve, all'inverno. Sì, diciamo dei consigli per riscaldarci, perché in effetti, allora intanto questa storia del riscaldamento globale chiaramente è una cazzata, cioè certo. Come direbbe, freddissimo, come direbbe Feltri, esatto. Sì. No, però effettivamente abbiamo patito la neve, cioè da queste, almeno da queste parti ha fatto un bel po' di freddo, ghiaccio e intemperie. E beh, è abbastanza un cliché che però noi ci ritroviamo che quando fa freddo è molto bello chiudersi in casa a riccio a leggere dei buoni libri o a vedere dei bei film. Insomma, è un po' il momento in cui ci si chiude anche a vedere e leggere cose che invece d'estate non facevi, magari perché andavi a giro. Sì, effettivamente non mi è mai capitato di leggere qualcosa di freddo durante l'estate. No. Che sia proprio dedicato, lo devi provare. Sì. Magari è rinfrescante. Magari invece sì, esatto. E quindi vi parleremo, diciamo l'abbiamo presa un po' larga e vi parleremo di vari tipi di freddo, cioè quindi sia di fantascienza e letteratura fantastica ambientata all'interno di mondi freddi, ghiacciati, gelati, ma anche di come noi in qualche maniera ci siamo svoltati questo inverno, banalmente. Banalmente, esatto. Così. Allora ci riscaldiamo un attimo con brani a tema e poi partiamo subito e partiamo con videogiochi, alcuni consigli di videogiochi, insomma racconti di videogiochi dedicati proprio all'inverno, alla neve, al freddo. Al ghiaccio. Spring, they'll go on. All the Everything's leaving, fires are now burning, and life has no reason. I am alone, waiting for nothing. If my heart freezes, I won't feel the breaking. Why must I stay here? Rain comes and sitting here, watching love moving away into yesterday. Questa era Winter is Blue, Wasti Bunyan, e però nella nostra tana invece fa calduccio, proprio come nella cantina di Star Wars. No, a parte si abita in un paese, in un pianeta secco, già badeato, per cui... A parte non solo lì lo cantano, ma lo suonano anche in altre situazioni. Bene, allora, dicevamo di partire da videogiochi, quindi da buon videogiocatore. No, ho chiuso il pad! Oh no! Ho chiuso il pad, ma so perfetto, mentre lo riapro so da cosa volevo partire. Sei a memoria, ti sei imparato la scaletta, chiaramente. Esatto. Eccolo qua. Allora, parto da un videogioco molto interessante che ti piacerebbe tantissimo. Perché in questo momento della mia vita ero un po' stanco dei soliti videogiochi a cui gioco, cioè fondamentalmente azione, dove ci sono delle belle storie. Principalmente prediligo quei giochi in cui a seconda delle decisioni che prendi cambia il gioco. Bello. Quelli sono quelli che mi piacciono di più in assoluto. Bello, certo. Addirittura c'è appunto il Mass Effect che ti porti le decisioni dal primo al terzo capitolo. Quindi tre videogiochi differenti. Quello che scegli nel primo gioco non è proprio fondamentale, ma comunque si ripercuote sul terzo gioco. Questi qui mi fanno impazzire. Qui ci devi pensare bene. Ci devi pensare bene, devi pensare bene se vuoi essere appunto buono, cattivo, o appunto non esiste poi buono o cattivo, ma insomma scegliere un po' la direzione. E anche in questo caso, di quello che vi sto per raccontare, ci sono molte scelte. Avevo bisogno di un pochino di, invece, di tranquillità, di c'ho poco tempo per giocare, quindi qualcosa che posso appoggiare lì e riprendere in continuazione. Ho pensato a un gestionale. Videogioco gestionale sono videogiochi dove fondamentalmente costruisci qualcosa, una civiltà, una città, oppure sì, principalmente questo, e tu costruisci e devi occuparti non solo dell'economia, ma della politica, della diplomazia, e ne esistono di tutti i tipi, appunto ambientati nella fantascienza, nello spazio, ce ne sono tanti, molto fighi, in cui proprio devi, ci sono delle galassie vive in cui tu ti muovi e le IA interne reagiscono di conseguenza, roba fatta veramente veramente molto bene. In questo mondo qua esiste questo titolo, Frostpunk, che già il titolo Frostpunk è arrivato al suo secondo capitolo, che è uscito quest'anno o l'anno scorso, non mi ricordo, quindi molto recente, grafica ottima. È un appunto un gestionale ambientato su, in questo pianeta completamente gelato. Ah, io pensavo fosse una roba tipo dei punk che stanno dentro centri sociali freddi. Sarebbe, ci poteva stare, ci poteva assolutamente invece stare. No. E invece no. È uscito nel 2021, scusami, 30 anni dopo il primo capitolo di Frostpunk. E fondamentalmente te sei in questo pianeta completamente gelato e devi riuscire a far sopravvivere e prosperare questa società di uomini, l'ultima città rimasta, meno male, non mi ricordo, una roba del genere. E però è tutto molto superpunk, quindi sono tutte c'è molto fumo, c'è molto carbone, c'è molto Certo. La cosa ganza però di questo tipologia di videogioco, in particolar modo Frostpunk, è che tu scegli, sì, metti gli edifici, le abitazioni, le cose per fare, costruire e dare da mangiare, ma soprattutto la politica interna. Per cui se ti vuoi dare a una società fuori dal capitalismo, lo puoi fare. E quindi dovrai decidere tutta una serie di cose. Dovrai scegliere. A un certo punto la popolazione avrà bisogno di essere in qualche modo amministrata, oppure chi lo sta amministrato dall'inizio va un po' detronizzato perché ha preso il potere. Tutte queste varie... Che figo. Quindi, poi ci sono le sommosse popolari, perché non c'è abbastanza cibo per tutti, o il lavoro... Ti devi occupare di quella cosa lì. Come te ne occupi? Con la polizia o con... Vediamo se sei... Esatto, e quindi bello. È tutto così, molto figo, grafica molto ganza, e è tutto nella neve in continuazione. Quello, il nemico principale è il freddo, chiaramente. Quindi la città si sviluppa in questo buco verso il basso, fighissimo, no? Molto, molto perché figo. Chiaramente, cioè, starei un po' sottoterra perché è più caldo. Forza, forza. Ah. Puoi costruire fuori all'aperto perché ti ghiacci immediatamente. Mm. Bello, guardati se poi ti capita qualche foto perché si vede. Poi di base tu vedi queste città dall'alto, poi puoi abbassarti magari per vederle, ma poi di base per interagire ti appaiono delle finestre dove c'è l'immagine e quindi c'è un art di certo. personaggio o è animato, a volte dipende, che lì prendi le decisioni, eccetera eccetera. Molto figo e totalmente invernale, più invernale di questo. Beh, direi. Considerato l'altro uno dei migliori in circolazione del genere. Abbiamo poi invece, per esempio, vabbè, non ce l'ho qui, l'ho riaperto il pad, sì, eccolo qua. Non ci devo arrivare, comunque abbiamo Snowtopia, un altro titolo appunto dedicato alla neve, però in questo caso devi creare delle piste sciistiche, una roba un po' più... tipo, insomma, più commerciale, più... un po' Cortina Style. Un po' Cortina Style, sì, non che di sti tempi non marca così bene, in fondo. Esatto, ora riuscirò a ritrovare il punto. Altro però potrebbe essere un'altra idea per un gioco, tipo, non lo so, un gruppo di ricchi che si deve barcamenare in una vacanza extra lusso e sopravvivere. Sì, esatto, potrebbe essere una roba interessante. Perché no? Perché no? Perché no? Beh, esiste Hotel, la versione del gioco da tavolo che fai quello è di vero. Base. Appunto, Snowtopia Sky Resort Tycoon è il sottotitolo. Quindi gestionale focalizzato sulla costruzione e gestione di stazioni sciistiche. Mm-hmm. E si concentra sulla soddisfazione degli sciatori. Non ci giocherò mai in tutta la vita, però esiste, vabbè, esiste. Sappiate. E c'è anche Sky Resort Idol Tycoon Snow, un titolo invece mobile incentrato sulla crescita e gestione automatizzata di un resort sciistico. Quindi... bellissimo. Io me immagino che ci saranno tipo dei manager che fanno questo tipo di giochi anche per un po' chissà, allenarsi. Può darsi, Cristo. Invece Winter Survivor, un classico, un gioco di sopravvivenza in cui oltre alla gestione delle risorse bisogna affrontare il freddo estremo sulla linea del Frostpunk, un po' meno figo perché non c'è la parte cyberpunk, diciamo, certo. Per cui meno, per quanto mi riguarda, meno interessante. Altri gestionali a tema invernale interessante, RimWorld, se lo scegli in un bioma freddo, quindi scegli un bioma freddo dove fare la tua partita, se insomma ghiaccio e tundra diventano una gestione piuttosto estrema. Anche qui un gestionale, cibo principalmente, insomma, gestione della popolazione. E poi c'è un DLC interessante di anno 1800, che è un altro gestionale ambientato invece nella rivoluzione industriale, storico. Un DLC che si chiama Land of Lions, regioni artiche, dove invece tu sei sempre nell'Ottocento, ma nelle regioni artiche, quindi... le prime esplorazioni, tra l'altro le prime esplorazioni... La Groenlandia. Ecco, brava, esatto. Trump che sta dicendo, ma voi siete solo arrivati con due navi e non è che avete fatto granché alla Groenlandia. Cioè, vagliela a dire. Vagliela a dire. D'altra parte gli serve, gli serve. Un altro videogioco, secondo me, vecchio, ma da sottolineare nella neve, è La Cosa. La Cosa lo conosci. Il film, no? Certo. C'è questo videogioco veramente, veramente all'epoca bellissimo, ora ingiocabile per la... Ah, tratto dalla cosa? Tratto dalla cosa, esatto. Ah. E ti vivi proprio in prima persona, perché uno spara tutto in prima persona horror, ti vivi tutta la storia fino a che non arrivi proprio alla fine e combatti alla fine con l'ultimo mostro, che è storica la scena, la battaglia finale, te sei sull'elicottero e la cosa alla fine... esplode, esce fuori questo mostro enorme che tira su il laboratorio, diventa una rete, te dall'elicottero gli spari per abbatterlo e poi ci sarà un ultimo scontro finale e finisce il gioco. E come si chiama questo gioco? Proprio La Cosa? La Cosa o... Si chiama La Cosa, sì. Uguale, è proprio quel filone lì, preso certo. pari, molto bello, però grafica ormai vecchissima di quando è, fammi vedere, del 2002. Eh beh. Quindi legnoso, insomma, non è difficile da giocare, però se uno c'ha voglia è da recuperare. Mm. Le ultime due sono The Long Dark, survival puro, in prima persona, quindi sei solo te in mezzo al niente che devi sopravvivere e accendere il fuoco. Con coltello fra denti. Esatto, focalizzato sulla gestione del freddo e delle calorie e dei vestiti in un ambiente canadese innevato. Cioè, ora ci sto pensando adesso che in effetti è una puntata praticamente in omaggio alla Groenlandia, quella che stiamo facendo. Fatto sì, non sto pensando neanche in questo momento. Resistete. Forza! Ora dopo ti faccio vedere il video, ho fatto vedere prima a qualcun altro, c'è questo video che ho trovato su internet dove si vede da una parte Trump che sbarca nella Groenlandia e che ne trasforma metà in pompe per il petrolio, e dall'altra la Groenlandia che resiste con questo esercito di trichechi con i mitra, certo, di orsi polari, speriamo, sugli sci, a un certo punto i pinguini in calascini, anche perché mi sa che sono più loro degli esseri umani. Sì, certo, non è abitabile, certo. Confidiamo in loro. Esatto. Vabbè. Ultimo, Lost Planet, ambientato in un'era glaciale, anche questo comunque nella neve totale. Non c'è mai caldo e quindi... Non c'è mai pace. Bene. E quindi direi, magari, se ti va, potremmo mettere uno stacco musicale, un brano, e poi passare invece alla parte dei libri. Yep. Allora direi che è arrivato il momento di Winter Song. Partito un frame dopo, vabbè. Succede. Tattu, più o meno non abbiamo capito come fa. Sì. Più o meno. Allora, torniamo in regia per questa puntata di Le Porte di Tannhäuser dedicate al freddo, all'inverno, al gelo. E siamo partite con un po' di videogiochi, ambientazioni decisamente gelide. Passiamo ai libri. Qui il nesso, io confesso, vi confesso proprio spassionatamente che sono assolutamente inadeguata, cioè che ho veramente trovato pochissima roba. E quindi ho deciso di fare una virata sui libri che ho letto d'inverno, eh? Cioè, io proprio... non vedo errori. No? Vero? No. Cioè il nesso è proprio limpido. E quindi vi parlo di qualche libro che ho letto, in particolare, come già ho fatto notare in altre puntate, c'ho un po' la fissa di, in particolare di Kim Bo-young, che è una scrittrice secondo me splendida. Assolutamente. Che finalmente è stata tradotta anche in italiano. E quindi io sto prendendo. Devo dire, ho imparato questa cosa, che sto andando ultimamente, perlomeno non mi è capitato prima, ma negli ultimi anni lo sto facendo, mi fisso su una casa editrice, e perché fanno delle scelte interessanti. Effettivamente c'è un nesso spesso dietro. E soprattutto quando mi piace un'autrice, un autore, ne voglio leggere ancora. Quindi sono partita leggendomi per la DD Edizioni, di cui vi abbiamo parlato spesso, una casa editrice italiana torinese, se non erro, che sta pubblicando diversi libri asiatici, c'è proprio una collana dedicata all'Asia molto interessante. E sono partita da appunto questa Kim Bo-young, che, come abbiamo detto altre volte, credo di avervela già citata, comunque è una scrittrice che ha collaborato anche con Bong Joon-ho per la scrittura per esempio di Snowpiercer, di cui tra l'altro ovviamente parleremo un po' dopo. E, è una scrittrice che scrive essenzialmente fantascienza, fantasy, horror anche direi. E i due libri che sono usciti per ADD li ho letti ovviamente entrambi, perché mi ci sono intrippata. Il primo si chiama, il primo che ho letto si chiama L'origine delle specie, e parto da questo perché è un libro secondo me splendido, che vi consiglio assolutamente. La trama è un po' difficile da spiegare, ma sono vari racconti, di cui ce ne sono alcuni divertenti, ma insomma, ma uno in particolare che poi viene ripreso alla fine, cioè diciamo che c'è una circolarità all'interno di questo libro, perché il primo racconto ha un'ambientazione, ha una trama che poi viene ripresa alla fine. E questo, che è anche quello che dà il nome al libro, è un racconto bellissimo, che fatichi all'inizio a capire, perché sono fondamentalmente dialoghi serrati. Vi leggo un primo pezzettino che è quasi l'incipit. Si chiama creazionismo, ok, esclamò Ivan ridendo per l'assurdità di ciò che aveva sentito. Il suo apparato fonatorio emetteva dei pit-pit, mentre i suoi occhi, grandi come teleobiettivi, producevano rumori di scatti. Se i nostri colleghi della celebre Università di Princeton ti ascoltassero, scoppierebbero a piangere. Quando è che ha abbandonato la via della scienza per rivolgerti a quella della teologia? Neanche 5 secoli fa i preti facevano a pezzi gli scienziati ancora vivi. E da queste piccole parole, piccole prime frasi, si entra in questo dialogo appunto molto serrato tra quelli che poi ben presto si scopre essere dei robot. E è una conversazione ambientata in un mondo universitario. Piano piano si allarga lo sguardo e ci si accorge che non è un'università fatta di robot, è un intero pianeta abitato ormai soltanto dai robot. Gli esseri umani non ci sono più, per ragioni che non la scrittrice non ci spiega, ma possiamo abbastanza intuire. Fondamentalmente a un certo punto i robot hanno capito che l'ambiente migliore per proliferare, per stare, eccetera, è un ambiente assolutamente, almeno a livello climatico, ostile agli esseri umani, dove c'è robot, quindi una... quelle macchine stanno bene in un ambiente tendenzialmente molto freddo, dove possono refrigerarsi bene, dove non c'è acqua, perché l'acqua, come sappiamo, danneggia i computer, danneggia le macchine. In quell'ambiente lì loro si trovano proprio bene, ma chiaramente è un ambiente ostile per tutta la biologia, per tutti gli esseri viventi, non solo gli esseri umani, anche le piante, gli animali, tutti i microorganismi. E qui siamo molti secoli dopo, quando ormai, forse anche migliaia di anni dopo, evidentemente dell'estinzione di quella che noi chiamiamo vita sul pianeta Terra, e i robot non si ricordano manco più che cos'erano gli esseri viventi, e quindi si forma tutta una serie di teorie. C'è una grossa faida tra gli evoluzionisti e i creazionisti, perché ci si interroga, i robot si interrogano sull'origine delle specie, per l'appunto, che in questo caso sono soltanto le specie macchine. E insomma, è super divertente, è fondamentalmente un racconto di filosofia vista dal punto di vista dei robot, che fa uno sforzo, ti costringe a uno sforzo anche di relativismo notevole. È molto molto molto divertente. E poi non vi dico altro, poi piano piano, oltre al dibattito filosofico, il racconto prende una piega anche molto di azione, ed è super divertente. E sempre di Kim Bo-jung, o chissà come si dice, c'è un altro libro che ho letto invece po' dopo, nella collana che hanno aperto da poco, sempre della DD Press, l'hanno inaugurata da pochi mesi, che è la collana horror, e lei ha scritto questo libro che si chiama Il mare infetto, che è stato scritto durante il Covid, sostanzialmente durante gli anni di quarantena, di pandemia. E la trama dice: dopo un devastante terremoto al largo della Corea del Sud, Seo Mu-young rimane intrappolata a Iwon, un villaggio isolato di pescatori, dove il misterioso morbo del mare dell'est sta trasformando gli esseri umani in creature deformi e marcescenti. E chiaramente, già da qui si capisce, questo libro è un fondamentale omaggio a Lovecraft. Quindi ci sono il villaggio di pescatori, ci sono i mostri ibridati con i pesci che vengono percepiti, e probabilmente lo sono, creature ancestrali, creature antiche, e che in qualche modo, per uno tsunami enorme, un evento climatico disastroso, dove in realtà poi lo vedremo, quando lo leggerete ve ne accorgerete, ha come sempre molto di umano in realtà. E lì c'è una, a causa di questo grosso tsunami, ritornano a galla, arrivano in superficie nel mondo di oggi delle creature che stavano giù negli abissi. E quindi c'è questo scontro tra le poche comunità umane che sono di fatto isolate, che stanno in questa situazione di pandemia, perché viene percepita come tale, iniziano a sviluppare questa malattia, che poi vedremo essere correlata in realtà a queste creature che stavano negli abissi. Questo molto bello. Voglio leggerli entrambi, ti dirò. Guarda, sono tutti molto belli. E lei ha, secondo me, devo dire, una bella traduzione per una volta, che ho apprezzato. E è uno stile di scrittura anche molto veloce, molto divertente. Ah, perché anch'io, no? Sto leggendo tendenzialmente da lì, dalla DD Press, tra l'altro, che... ma visto che copertine ci hanno? Bellissime. Ma che figata. Sono veramente curati, sì. Stavo spulciando il sito. C'è anche la borsetta in omaggio, se vuoi. Di questa Lucrezia, che ora mi devo cercare. Letto solo Lucrezia come autrice dei disegni. Comunque sì, questo poi Mare Infetto ricorda molto la maschera di Smooth, non so come si dica, che poi parla proprio di quello, di esseri dalle profondità, da religioni abissali che ti corrompono, trasformando gli esseri umani in uomini metà pesci, però, esatto. Però è Lovecraft, quindi sono pesci putrescenti, non è un... sono gli uomini pesci di One Piece, yeah, che si fa a cazzotti. E anche lei chiaramente riprende proprio questo aspetto. Mentre la traduzione è buona, mi dici, perché nel senso le traduzioni sono molto buone, però si sente che è scritto da un non occidentale. Sì. Anche in questo caso. Sì, e tra l'altro c'è dei riferimenti anche culturali che sì, che io almeno associo abbastanza alla cultura asiatica, perché per esempio anche sulla cosa, quest'ultimo romanzo che è chiaramente ambientato in una pandemia e lei stava vivendo i giorni della pandemia, c'è un grosso, una grossa attenzione alla stigmatizzazione del malato, dell'infetto, di come in qualche modo si isolano queste persone, le si manda via, cosa che in Occidente forse avremmo quantomeno scritto diversamente, penso. Ci sono molti dettagli sulla scrittura, purtroppo non conoscendo il coreano e non sapendo certo. bene, cioè mi so rendere poco conto, però sì, rispetto a altre cose asiatiche che ho letto, devo dire non coreane ma cinesi per esempio, taiwanesi sempre per la DD, che invece trovavo un po' faticose, un po' anche con uno stile un po' ostico. Infatti io ho letto roba taiwanese effettivamente. Ho capito quale dici, forse sempre della DD anche. Della DD, dico, poi ho letto Oso, Ching Sin Liu, che è cinese, però. Però lì è un'altra storia. Però poi lui è abitato in America, per cui. Esatto, c'è anche quello. E poi sì, anch'io quegli altri l'ho trovati un po' per certi versi faticosi. Ma la stessa, devo dire, altro libro che non vi ho messo perché così ne avevo già parlato altre volte, era la. Ora poi ve lo dirò, la. Scrittrice giapponese di racconti principalmente, sì. Suzuki Izumi, morta suicida negli anni 80, ma un'icona della controletteratura giapponese. E ho letto questi due libri di racconti, uno molto bello che tra l'altro ne parlavamo anche in trasmissione qualche mese fa. Il secondo che ho letto, ad esempio, cioè, ho faticato molto di ma più. Ma lo sai che con i giapponesi mi succede anche a me? Leggo il primo libro e dico, wow, fighissimo. Leggo il secondo e dico, ma no. No, tre, sì, il terzo, no. Non lo so, io l'ho trovata proprio tanto depressa. Poi d'altra poverina, si è ammazzata. Si spiega. La coerenza. Cosa. Però, esatto. Non lo so, E invece sì, Kim Bo-young ve lo consiglio assolutamente, perché invece secondo me regge anche il secondo libro, ecco. Allora, off topic, la prossima lettura, sempre a D Edizioni, si chiama Asia Ribelle. Ho iniziato a leggerlo. Ah, ecco, sei imbattuta. Ecco, a proposito di letture faticose, ho fatto molta fatica, confesso che l'ho smollato a metà, anche perché è enorme, sono tipo 600 pagine, no? Quant'è? Infatti costava 45 euro. Infatti ovviamente ho preso scaricandolo. giusto, noi sponsorizziamo entrambe le cose, volete il cartaceo prendetevelo, ma... Se volevi leggere senza spendere. Anche perché in questo caso appunto non l'avrei mai comprato e invece così ho potuto leggerlo. Molto interessante però. Ma che cos'è? È un romanzo? No, è un saggione. Un saggione dove parla dei movimenti rivoluzionari dell'Asia dal fine 800 fino a metà del 900. Molto interessante, io mi ci sono buttata a capofitto perché la storia mi interessava molto, ma è veramente difficile perché ha una quantità di riferimenti vorticosi, una scrittura pesante, devo dire, nel senso che sembra di leggere Garcia Marquez, cioè ci sono 500 vicende tutte intrecciate. Siamo tutti uguali? No. È un po' difficile, effettivamente, però, insomma, non vi voglio neanche scoraggiare, provateci, io ho faticato. Quindi, scusami, me lo sono già perso, dov'è? Asia Ribelle, giusto per darvi a Tim Harper, Libro Mondo, che ripercorre le traiettorie avventurose degli uomini e delle donne che gettarono le basi di una nuova idea di Asia. Quindi terroristi, ammutinati, femministe con i capelli a caschetto, che vuol dire? Doppio giochisti, tipo... Non l'ho letto, magari ha senso. Tipografi clandestini, eccetera, eccetera. Insomma, alcuni episodi sono molto divertenti, effettivamente molto interessanti. Si concentra anche su alcune parti dell'Asia, per esempio, cosa che mi ha un po' deluso, perché, per esempio, è molto focalizzato sulla Cina e sul Vietnam e su cosa c'era anche Java, l'India, chiaramente gran parte parla di movimenti anticoloniali, certo. E ci sono anche delle storie molto interessanti, devo dire, mirabolanti, di robe che non ti aspetti, però sì, non è proprio così completo come speravo e a volte certo. Lo anche troppo, però insomma vabbè, mi aveva tirato anche a me l'attenzione. No, allora torniamo all'inverno. Tornando all'inverno, o meglio, appunto, i libri che ho letto, questi sono i due che ho letto e che vi sponsorizzo. E poi ci sono i libri che voglio leggere d'inverno, ma che ancora non ho letto. Belli, sempre le parole inverno, cioè, va bene. Tanto, no? siamo ancora inverno, tecnicamente. E uno, a dire il vero, l'ho cominciato, lo sto leggendo, l'altro no. Allora, il primo è per Neri Pozza, questa volta. Entrambi i libri di cui vi parlo sono per Neri Pozza, perché si ritorna su quello che vi dicevo prima, vado a fittonate di case editrici. E c'è Natale con i fantasmi, che è una raccolta di racconti che così penso in maniera abbastanza pretestuosa hanno messo insieme l'incipit dice: quando le giornate si accorciano e i crepuscoli si fanno lividi, è il momento di raggomitolarsi sul divano, accendere le candele e lasciarsi conquistare da un racconto spettrale. E effettivamente è quello che più o meno ci siamo dette anche all'inizio trasmissione. Ci sono delle storie di fantasmi in questo libro. Gli autori sono anche piuttosto famosi. Ci sono Bridget Collins, Imogen Armes Gower, Jess Kidd, Elizabeth McNeil, Kieran Millwood Hargrave, Laura Parcel, Andrew Michel Harley e Natasha Pulley. Ora, io la maggior parte ammetto che non ho mai letto, ma sono arrivata a questo libro per Kieran Millwood Hargrave, che invece ho letto e... il Vardo dopo la tempesta. Esatto, è la scrittrice che ha scritto Vardo, ne abbiamo parlato anche in un'altra puntata. Sì. Ci stava bene anche quello in realtà come libro d'inverno, se non fosse che ne avevamo già parlato, ambientato nel lontanissimo mondo Sami Inuit nel 1600, in un paesino lontanissimo, proprio al confine del mondo, diremmo noi, e ghiaccio ovunque e un processo alle streghe vero, tra l'altro è una storia in realtà tratta da un episodio vero molto importante, di una storia che ha del magico, ha degli elementi chiaramente legati alle traduzioni, ai culti sami, che sono dei culti animisti che hanno a che fare con... Forse. Sì, con anche un rapporto diverso con gli animali e la natura, e quindi molto interessante, e però l'ambientazione è un fatto vero, perché è questo processo alle streghe che di fatto sterminò fondamentalmente tutte le donne del paese e anche buona parte degli uomini. E sempre di questa autrice, che appunto si ritrova in un racconto in questo Natale con i fantasmi, che quindi volevo cogliere l'occasione per leggere. Sempre di questa autrice ho iniziato a leggere L'albero della danza, sempre per Neri Pozza, che anche questo è ambientato non nel 600, ma insomma quasi, perché nel 1518. E anche qui le protagoniste sono tutte donne, o quasi, ma insomma la maggior parte sì, ambientato in un ambiente rurale molto povero, dove si fa la fame vera, e dove ci sono queste donne che cercano di barcamenarsi con l'apicoltura, che è l'unico modo per provare a sopravvivere anche all'inverno, alle intemperie, alle carestie, e niente, si ritrovano con tutta una serie di violenze, soprusi fatte sostanzialmente dai potenti di turno, e quindi c'è tutta una serie di elementi, da una parte storici, abbastanza anche attuali, così, però anche qua c'è tutto un legame con i culti antichi, con delle religioni mai del tutto sopite, anzi che ritornavano nonostante la Chiesa Cattolica cercasse in tutti i modi di schiacciarle. E quindi c'è tutta un aspetto più magico che probabilmente era molto più nella quotidianità in quei tempi, perlomeno. Vediamo, lo sto iniziando, molto bello, mi piace, lei secondo me ha un bellissimo stile di scrittura anche, e vediamo dove. Ganzo, molto bellino, lei è giovane tra l'altro, piuttosto sì. Giovane. Sì, devo dire. E altra cosa devo dire è che Neri Pozza nel 1996 ha fatto il sito, ha detto a posto per sempre, secondo me. Sì. Sì, ma quando una cosa funziona, esatto. Perché cambiarla? Esatto, perché spendere soldi? Ma giustamente. Okay. Bene, no, belle, ottimi i consigli, devo dire, mi ha fatto venire voglia. Credo di aver più voglia di leggere i primi due, però... Beh, sì, eh. Però anche questi sono molto fighi. E la cosa anche che a chiosa vi volevo dire, la chiosa cosa che vi volevo dire, è comunicazione di servizio, che però si diceva prima fuori dai microfoni, fa sempre piacere ricordare, è l'accesso a NAS Archive. Giusto. Che qualcuno, chi lo usa, se sarà resa conto, stanno chiaramente cercando di silurare in tutti i modi. Hanno chiuso i domini, per cui vari domini che aveva, i più importanti domini che aveva NAS Archive, li troverete inaccessibili, non siete voi. No. Però l'indicazione che hanno dato da NAS Archive, che trovate un po' dappertutto nell'internet, è quella di controllare la pagina di Wikipedia, perché lì si trovano i domini aggiornati attraverso i quali potete raggiungere questo progetto molto interessante di cui altre volte avevamo parlato e dal quale potete scaricare veramente moltissimi libri. Sì, non ne parleremo stasera, forse non è la puntata, forse neanche la trasmissione giusta, però questa questione di internet, che i governi te la possano spengere, Però, appunto, quando invece fai dei progetti così internazionali, mi devi beccare. Quindi chiudimi i server, io ne apro dei domini e io me ne apro di nuovi da un'altra parte. Eh sì, tra l'altro, poi sì, è un discorso lungo e complesso, però sicuramente c'è anche da ricordare, per esempio, a questo titolo anche Archive, che ha una causa molto importante e molto pesante nei propri confronti, perché durante il Covid, se vi ricordate, decise di liberare tutta una serie di libri e renderli usufruibili a tutti, in modo anche da incentivare le persone a stare in casa e anche a non, insomma, a passare il tempo in una maniera bella, a nutrirsi. Esatto. E adesso c'ha una causa con le multinazionali dell'editoria sostanzialmente e le grandi case editrici, per cui insomma c'ha grossi problemi. Sì. E quindi va, noi... è una grande merda quella del... sì. Cioè, sì. Il mondo dell'editoria, beh, per fortuna è fatto di scrittori, scrittrici, traduttori, insomma è tutto il mondo lì, però di base è una merda, a livello mondiale, poi tra l'altro, se ne salvano veramente pochissime. Infatti noi anche per questo vi sproniamo a odiare il copyright e a usufruire di quel poco di cose libere che si riescono a strappare. Assolutamente, comunque la base è, come sempre, leggere e sognare. O comunque vedere cose, sognare attraverso quello che volete, qualsiasi sia il vostro medium per sognare. Aggiungo tre titolazzi al volo. Esatto. Allora, velocissimamente, ne ho parlato mille volte, ve ne parlo tutte le volte, io direte per questo, però l'Ursula Le Guin, d'altronde... Ci andava, Sia il pianeta dell'esilio, che se vi ricordate è quello, quel romanzo che parla di questo, diciamo, viaggiatore che si trova intrappolato in questo pianeta dove ciclicamente l'inverno dura 12 anni, anche un cinquantennio, e poi dopo ogni tanto arriva l'estate, però di base è sempre sotto la neve. Quindi sicuramente rientra nell'ambientazione, appunto, velocissimamente, il controaltare di questo viaggiatore esperto e tecnologico in questo mondo invece molto arcaico e arretrato, dovuto appunto proprio alle questioni climatiche, poi abitato da popoli nomadi. La protagonista invece è una donna appartenente a quella alla tribù nomade, e che a suo modo invece alla fine risulta essere la vera vera essenza della modernità e del riscatto, molto più della, del super tecnologico protagonista maschio, ma è lei che all'interno di una società assolutamente patriarcale e violenta riesce a trovare, a liberarsi e a, insomma, poi bisogna leggerlo, però insomma questa è un po' la sua dinamica. E poi La mano sinistra delle tenebre, anche lì in realtà questo pianeta Winter dove viene ambientato è anche quello perennemente sotto la neve, si chiama Winter, tant'è che a un certo punto c'è tutta una scena molto importante dentro questa tenda in mezzo al niente, dove il nostro protagonista sta scappando perché è braccato insieme a un altro personaggio, e è molto figo perché hanno questa piccola torcia che però fa anche calore, che quindi riscalda completamente. Chiaramente in un pianeta che si chiama Winter la gente è attrezzata, c'ha delle super attrezzature per rimanere viva. Poi non è questo il clou del libro, però l'ambientazione ci rientra. Invece interessante, aspetta che lo ritrovo, dove l'ho messo? La morte dell'erba, The Death of Grass. La morte dell'erba. Romanzo di fantascienza post-apocalittica di Christopher, John Christopher, che è lo pseudonimo di Sam Yund, pubblicato nel Regno Unito nel 1956, quindi non è una roba di ora. Pubblicato poi nel 58 in Italia, va bene, che tra l'altro, come sempre noi ne abbiamo parlato tante volte, l'abbiamo chiamato nelle prime pubblicazioni La peste verde. Vabbè, che era perfettamente filone B-movie. Ci può stare. No, La peste verde, ma perché no? E è interessante, qui c'è un virus. In questo caso c'è un virus che si diffonde, che distrugge tutte le graminacee, tra cui mais, miglio, sorgo, segale, orzo, riso, grano, e quindi è un casino, perché comunque sono alla base della creazione di tante cose, è un casino, e quindi c'è un globale accaparramento delle scorte alimentari, e tutto il romanzo è il protagonista che cerca di combattere per raggiungere la valle del fratello che rappresenta la salvezza, dove contro l'ottimismo delle autorità mondiali, la distruzione folle delle risorse, si sono isolate e difese le piante alimentari superstiti, insomma hanno preso gli ultimi superstiti, sono spostati in un bioma, in una parte di terra, che chiaramente le stagioni ormai si sono, perché comunque i virus che prendono le piante poi rimescolano tutto il pianeta. E quindi loro si devono spostare in un ambiente dove invece possono crescere, ma dove vanno anche difese dagli accaparratori capitalisti. Chiaramente in queste situazioni sono in prima linea per derubare tutto e tutti. Quindi Ganzo non l'avevo mai. Poi nel 57. Esatto. Bah. Quindi Ganzo. L'altro invece è Un mondo di ghiaccio. Un mondo di ghiaccio fa parte di una trilogia. È di A.G. Riddle e la trilogia si chiama Il lungo inverno, composta da Un mondo di ghiaccio, che è il primo, Guerra solare il secondo, e La colonna perduta, che è il terzo. E fondamentalmente il mondo assiste stupito a una nuova era glaciale, quando il ghiaccio comincia a ricoprire le intere porzioni del pianeta. Chiaramente le tensioni fra i paesi ancora che sono abitabili, perché alcuni non lo sono più, cresce, che scoppia una sorta di conflitto mondiale. Gli scienziati della NASA ricercano disperatamente risposte, perché non si sa perché sia arrivato questo freddo globale. E quando una sonda inviata nello spazio scopre un misterioso oggetto che orbita intorno alla Terra, allora cominciano a svelarsi alcune risposte a queste domande. Cioè dipende da questo oggetto, questa situazione catastrofica, si pensa sia una reliquia appartenente a una civiltà estinta, non si sa bene cosa sia. Ipotesi su ipotesi, e insomma fondamentalmente il dottor James Sinclair, che è il protagonista, uno dei più autorevoli studiosi di intelligenza artificiale viventi, si unisce alla missione che tenta il primo contatto in orbita con questo essere. Però chiaramente è una scoperta che va al di là di ogni immaginazione. E certo, non è che può essere una cazzata. E quindi le decisioni che dovrà prendere il protagonista entrando in contatto con questo oggetto cambieranno, possono cambiare il destino dell'umanità. Interessante e un po' più pop forse, però... Vabbè, ci sta. Comunque d'inverno ci sta un po' di pop anche. Sì, è vero, hai ragione, ci sta anche un po' di pop. Ma sì, c'è tutte le canzoni di Natale, normale. Mamma mia, odio totale. Quindi forse facciamo un altro stacchettino prima di passare all'ultima parte che invece dedichiamo ai film e ai fumetti. Of che dici? Course, ci fermiamo un attimo con Winterlog. No, l'ho cambiata, volevo dire di chi è Winterlong, ma ho già messo il pezzo dopo. Sunny Cute, se non sbaglio. Giusto. E rieccoci qua, parliamo di inverno, di neve, che tra l'altro, se ci fai caso, tendenzialmente, soprattutto la letteratura che parla di neve, c'è qualche cosa di cambiamento climatico, c'è comunque un'apocalisse, è post-apocalisse. Ci fa paura comunque. Boia se ci fa paura, giustamente. Ma ci fa fatti. Insegrullo. Ah, infatti, questo poi si ripercuote nella parte cinematografica, senza alcun dubbio, perché diciamo la produzione post-apocalittica è bella, bella corposa. Sì. Diciamo che è un filone molto fertile, non si sbaglia. Ti vedo che ti è successo delle cose brutte. Mi smatta il computer. Sì, il computer, ma anche il mouse. Ora ritrovo il filo. Da cosa partiamo? Dai fumetti o dai film? Come vuoi, come vuoi. Partiamo dai film, così anche se non leggo. Ah, più facile. Il film chiaramente tocca... No, ce l'ho fatta, solo ci sono. Tocca citare almeno Snowpiercer, che per come forza. Abbiamo detto prima, ne abbiamo parlato altre volte, sì. Quindi non vi faremo il pippone. Volta. Però sì, è ambientato in una, anche lì, come dicevi te, in una post-apocalisse dove il mondo... è completamente film di Bong Joon-ho, il mondo è appunto in un'era glaciale, di fatto è ritornato in un'era glaciale e le persone sopravvissute, che sono comunque poche, si ritrovano tutte all'interno di questo treno che, per quanto ci è dato sapere, è l'unica, l'unico scampolo di umanità rimasta e che gira all'infinito, non si può fermare perché grazie al movimento dello stesso treno, esatto, si alimenta, quindi non può fermarsi mai. Chiaramente metafora del capitalismo, metafora della crescita continua, inarrestabile. E all'interno di questo treno ci sono il treno è suddiviso in classi sociali e niente, il film si sviluppa con una rivolta che parte dagli ultimi vagoni del treno per arrivare in cima e scoprire che poi forse l'apocalisse magari si poteva anche, forse non c'era neanche stata, o se c'era stata qualcosa, sì, rinasceva. Esatto. La cosa interessante di molte tipologie di film, serie, fumetti, quello che vuoi, apocalittici, è che di base poi il problema non è mai l'apocalisse in sé, ma è l'uomo, ma la soluzione, cioè l'essere umano. Sì, l'essere umano, e il problema è l'essere umano. Sì, sì, questo, su questo penso che siamo veramente d'accordo, siamo anche abbastanza d'accordo, sì, sì. Non c'è nessun dubbio. Allora cito io invece, non l'abbiamo mai citato, The Road, la strada, di cui hanno fatto un film, fumetto tratto dal romanzo di Cormac McCarthy. Perché citiamo questo qui? Perché anche qui, catastrofe apocalittica globale, non meglio precisata, perché in questo caso davvero non ci interessa, perché qui appunto è l'uomo, l'essere umano. Voglio imparare a non dire uomo, come mi hanno insegnato alla scuola, ma voglio imparare a dire essere umano, non mi riesce. Però con piano piano, con la pratica ci riuscirà. La Terra è diventata un grigio deserto freddo abitato da pochi sopravvissuti. Il disastro ha portato alla formazione. È un po' un Mad Max nel freddo. Ah. Un po' un Mad Max nel freddo, invece di essere in deserto caldissimo. Che bello, ma c'è anche tutte le macchine. No, non è così bello. Ok. È molto più introspettivo, il protagonista con questa bimba appresso, molto più, ricorda molto più... no, è la figlia, se non ricordo male. Però ricorda molto The Last of Us. Certo, ok. Chiaramente ricorda The Last of Us. Figlio, non era figlia. Vabbè, che ripercorrono a piedi gli Stati Uniti sperando di raggiungere un clima migliore. Quindi si va verso sud sperando di trovare più caldo, perché loro sono invece nella parte più a nord. E quindi poi la ricerca di cibo, scappare dai pericoli. E poi c'hanno sto carrello che si portano dietro per portare la roba, cose. Sì, perché non funziona più niente di nulla. E vabbè, c'è il carretto. Ci sta di citarlo, perché comunque la neve, soprattutto nel film, si sente, si vede molto. Quindi ci sta. Fumetto molto bello, tra l'altro. Mi è piaciuta la cosa. E poi The Day After Tomorrow, dire uno dei... dei reggenti del filone apocalittico. Vi ricorderete tutte e tutti della copertina, era la Statua della Libertà ghiacciata, no? Col ghiaccio dato dal vento al posto della fiamma, sommersa nella neve, sì. E lì, vabbè, molto più terra-terra come film. Ma sì, ma certo, è una roba all'Independence Day. Era una roba all'Independence Day, anche se Independence Day ce l'ho nel cuore, quindi The Day After Tomorrow un po' meno, però... Sì, dai, infatti. Nel senso che Independence Day è talmente idiota per certe parti che è divertente, esatto. Ma dai, ma pure anche The Day After Tomorrow. Sì. Cioè, è raro, non però so. Fa ridere. Fa un po' ridere, sì, per certi versi fa un po' ridere, poi c'è certo, ho visto quando bruciano i libri per avere il caldo, i lupi, vabbè. Però vabbè, ci sta. Sì, una tresciata, siamo d'accordo. Una grande tresciata, sì. Però comunque vedere tutti gli Stati Uniti pieni di neve in difficoltà di questi tempi ci mette bene, ci mette allegria. Esatto. Che i canadesi sono preparati, perché c'hanno tutte le città sottoterra, ma gli americani no. Vacci in Groenlandia, vacci. Poi vediamo chi ride. Vabbè. Altro di film, noi abbiamo messo questi, ce ne sarebbero sicuramente mille altri, però era per dare un po'... Sì, anche perché davvero, come dicevi, il filone della post-apocalisse con il ghiaccio è secondo forse solo a quello con il caldo, cioè sono un po' i due, sì, i due filoni, sì, principali. Il caldo, freddo, hai ragione, sì, sì. E poi in fondo sono tutte la scusa per raccontare ognuno come la vede sul... se gli esseri umani sono buoni o sono cattivi, se poi alla fine della fiera si ucciderebbero tutti, se invece ne potrebbe nascere, sì, qualcosa, sì, di buono, tutto tanto ruota intorno a quello. Sì, e tra l'altro questi vanno a minare la mia speranza in cui l'umanità si riunirà solo nel momento in cui avremo un nemico esterno. In realtà, se ci rifletto vedendo questi film, forse no, l'umanità non ce la può fare proprio. No, ma secondo me, io ho questa teoria da sempre, che questi film lo fanno apposta per toglierti ogni speranza di possibilità di cambiamento, okay, no? Cioè ti segano le gambe, dice cioè, no, il legno storto dell'umanità, no, no, noi non ce la si può fare, faremo schifo, ma in realtà è per scoraggiarti. Io ho questa teoria, ce l'ho sempre avuta, perché a me piace il wishful thinking. Sì, è che poi il problema è che quando chi parla di queste cose di solito sono gli americani, gli inglesi, cioè la proprietà privata, inalienabile. E comunque parla per te, se ci lasciamo in pace, magari... Io vorrei vedere in che ne so, in Kosovo come va, andrebbe un'apocalisse. Esatto, che ne sai, magari. Magari benissimo. Vabbè, passiamo ai fumetti in chiusura di puntata, cioè ultima parte, ultima carrellata per questa serata, per questa puntata. E non possiamo non citare l'Eternauta, ma non possiamo non rimandarvi alla puntata scorsa in cui l'abbiamo dedicata proprio all'Eternauta. L'abbiamo scandagliata, direi fino in fondo, anzi abbiamo in ponte anche di farne un'altra legata, insomma, comunque sempre all'autore, quindi insomma vabbè, non ne riparliamo, se non che, come sapete, i nemici dell'umanità, appunto in questo caso, arrivano attraverso una neve proprio. La neve assassina, esatto. Che potrebbe essere la neve nucleare dell'inverno nucleare, ma in realtà poi si scopre che no, non è quello. Esatto, esattamente. Quindi non stiamo a ripercorrere, andatevi a recuperare, ve lo straconsigliamo, la puntata dedicata, è quella prima di questa che state ascoltando. Invece, per riallacciarmi alle tue letture, dicevi il mare infetto, che è di lovecraftiana memoria, andiamo invece proprio a Lovecraft, però ve l'ho già... Penso di averlo già consigliato diverse volte, perché Gutanabe, un fumettista, un mangaka giapponese, sta ripercorrendo tutta le opere di Lovecraft e le sta rifacendo sotto forma di fumetto, con un disegno fuori controllo. Davvero? Ma bellissimo, ce l'ho tutti, te li presto, ti preoccupare. Che bello! Sono super fan, quando c'ho, infatti quando mi regalano il buono dalla mia fumetteria sono felicissimo, perché vado a comprarmi quei cofanettini che costano un po' tanto. Però ne vale la pena. Col buono vado a prendermeli. Che bello! E quando parlavi di quello lì non potevo non pensare anche, non solo alla maschera di Smoot, ma alle Montagne della Follia, che quello è totalmente ambientato nella neve, perché non è l'Antartide ma è il Polo Sud, vero? Sì, mi sembra, dove ci sono fondamentalmente questi esploratori che vanno ad esplorare appunto quella parte dell'Antartide, insomma, inesplorata, e vanno a cercare proprio queste montagne, questa catena montuosa che si dice che una volta un esploratore tempo prima aveva intravisto in lontananza, e quindi i nostri protagonisti, che è una spedizione ottocentesca di esploratori che vanno a cercarle e le trovano. Quindi campo base di esploratori, quello classico, no? Dicevi? Che questa cosa del ghiaccio, le nevi, l'Artico, è un po' come quando abbiamo parlato degli abissi, no? Che sì, ci scatena chiaramente questa paura dell'ignoto, paura e fascino dell'ignoto, perché lì sotto sicuramente ci saranno creature ancestrali, robe che stanno lì da chissà quanto, e tutto un ignoto. Quindi esatto, anche questo è un filone effettivamente invernale tipico. È vero, vero, vero, vero, vero, esatto. Queste montagne comunque della follia porteranno chiaramente, come dice il titolo, alla follia tutte e tutti, No, mi sa che sono solo uomini, perché effettivamente nell'Ottocento una spedizione nell'Antartide non credo che... E niente, però va letto, è appunto è una follia come alla Lovecraft, che cresce piano piano. All'inizio è tutto normale, poi comincia a dire ma c'è qualcosa che non va, ma no, e invece sì, c'è qualcosa che non va. E poi finisce, cioè i mostri e i nemici di Lovecraft poi finiscono nel niente, cioè poi alla fine non ci sono. Cioè ci sono, appaiono, ti lasciano, non si sa. Poi dici ma è successo davvero, non è successo davvero, non si sa mai. Questo è il grande problema di Lovecraft, sì. Che ti rimane sempre, dici madonna però Esatto. Che fai, e ora esatto. È indicibile. No, capito, è indicibile, ora me lo dici, su queste 100 pagine, ora esatto. Me lo dici José. Lo so. E niente, queste montagne nella follia che poi le puoi trovare solo con la fortuna, perché non ci si può arrivare normalmente. E quindi poi i sopravvissuti e tornano indietro racconteranno, ma nessuno troverà mai più le montagne della follia. Bellissimo, straconsigliatissimo. Bello. Invece, altro consiglio, invece non consigliato un po' così, però parla della neve, Ali sulla neve. Shin Takahashi è un seinen romantico poliziesco ambientato in un contesto nevoso. Sentimentalone, però vabbè. Tutta neve, se vi volete far scaldare un po' il cuore sotto la neve ci può stare. Può andare. Invece ora questo non me lo sono riaperto, ora me lo riaperò, quindi ne parlerò dopo, che è La principessa bianca, però che è del team Clamp, che è un team di mangaka solo donne, mm-hmm. Che sono molto famose, che hanno scritto tanta roba veramente veramente bella comunque, col loro stile unico. Sono quelle, per intendersi, oioi! Cattura la carta, Sakura. Non l'ha mai capitato? Zero. Era una di quelli delle prime mandate degli anni 90 di serie, anzi non la seconda mandata, di serie anime, dove la protagonista fondamentalmente doveva riuscire a recuperare questo mazzo di tarocchi magici, che però erano andati fuori controllo, e per riprenderli e poi ne assumeva il controllo, era... molto carino, molto leggero. Le Clamp fanno tutta roba molto simile, però... Vedevo che La principessa bianca, per esempio, è del 92, cioè quindi è un po' là. Pubblicato nel 2005 in Italia, e che però sì, anche lì ruota intorno alla mitologia giapponese, ai miti della cultura giapponese. Sì, interessante. Certo. Sì, la Yuki Onna, che è un yokai, gli yokai sono gli spiriti maligni. Mm-hmm. Perché ce l'hanno, sì, effettivamente gli spiriti maligni della neve sono donna, tendenzialmente. Questa cosa particolare. Comunque ci sta, la Clamp è sempre una certezza, secondo me, da leggere, quindi ci sta. Poi c'è Taniguchi, Jiro Taniguchi, non so se l'hai mai sentito nominare. Sì, sì, dai, fa molto famoso. Principalmente ha fatto manga sulla montagna, appunto la montagna. Fondamentalmente, però, poi le sue opere sono scorci di roba. Scorci, scusami, di vita, di mondo, raccontati sotto forma di fumetto. Per cui c'è tipo tutta la serie sul cibo, dove sì, bellissimo, che quello è fenomenale. E quelli sulla montagna, tipo l'uomo che cammina, appunto, che è proprio ambientato in mezzo alla neve. E la resistente è un po' una storia di alpinisti, però molto introspettiva. Che bello. Ganzo, comunque, ganzo. Finiamo con ultime tre opere, di cui una non manga, grazie a Dio. Snowball, anzi no, prima vi parlerò di Kaina. Aiuto? Eccolo qua. Kaina of the Great Snow, fighissimo, veramente fighissimo, che è lo stesso autore di Blame, di Night of Sidonia, okay. Quello sì. Che ne ho parlato diverse volte, forse ho anche accennato questo probabilmente. Questo nostro protagonista che abita con l'ultimo villaggio rimasto di umani in questa lunga distesa bianca, che però si scopre non essere altre che nuvole, quindi loro abitano nelle nuvole. Ma dai, cosa c'è sotto le nuvole? Un immenso mare bianco di neve. Oddio. che si pensa essere disabitato. Invece col cazzo è disabitato. Cioè, ci mancherebbe. Ma è abitato invece da gente che si che crea città sotto questi gigalberi che arrivano fino alle nuvole, e che sono gli unici detentori di un po' d'acqua rimasta, perché questa neve non è acqua da bere, perché si può bere, e quindi è un casino. Che bello. E chiaramente non sono simpatici e favorevoli. Allora, praticamente l'incontro classico col mondo sotto è del nostro protagonista che salva questa ragazza, che è per l'appunto una principessa, che viene da, che però sta cercando di salvare il proprio regno da invece un regno che cerca di accaparrarsi tutta l'acqua di tutti, invece che condividere loro rubano. Chiaramente. E lei va su per perché c'è questa leggenda per cui sopra le nuvole ci sia un grande saggio che sappia dare la risposta a tutto. Arriva su e scopre che però questo grande saggio non esiste. Mago di Oz, praticamente. Esatto. E quindi poi in realtà non sono andato avanti oltre il primo volume, quindi ancora non vi so dire precisamente come va, dove va a parare. Dove va a parare, lo vedremo poi. Allora, invece altra roba interessante è Snowball Heart. Carino, disegni non eccelsi, però carino. Fondamentalmente è una guerra di resistenza in questa terra che è totalmente innevata da questa razza aliena che assale. No, aspetta, ma io forse mi sto confondendo. Stai scambiando. No, Snowball Heart. Sì, però era questo, no, perché sto leggendo sotto per aiutarmi, stavo mettendo una sinossi, non c'entra nulla con quello che mi ricordo io. Oh no. Vabbè, però almeno il nome. No, no, il fumetto è lui, ma l'ho letto, cioè il manga è lui, l'ho letto. Boh, vabbè. Ora, la prossima volta si guarda. Snow Angel invece. Snow Angel. Unico non... L'angelo della neve. Esatto, l'unico non manga. Edito da Panini, se non sbaglio. Ahimè. Vabbè. Perché sono dei maledetti monopolisti. Bellino, serie in più numeri. Millie e Mai sono i protagonisti. Non sanno perché la loro gente viva nel luogo congelato che chiamano casa. Nessuno lo sa. Nel giorno del 10° compleanno di Millie, il padre porta le due ragazze oltre la trincea per un rituale di iniziazione. È tutto questo mondo strano in cui c'è una guerra congelata con le trincee, si vive sotto la neve, quindi imparare a pescare sul fiume ghiacciato, cacciare i cani perché non ci sono gli animali, però i cani randagi sì. E poi un ritorno degli dèi ancestrali, quindi ringraziare gli dèi. Questo è questo mondo qua, questo mondo strano, post-apocalittico, però interessante, diverso dal solito, in cui la società cerca nuovi punti di riferimento e nuove riti di passaggio, no? Nuovi modi per sopravvivere. E quindi è la storia di queste due ragazze che appunto figlie di queste due ragazze che scoprono il mondo attraverso proprio questi passaggi. Bello. Almeno per quello che ho letto è questo. Poi probabilmente la storia diventa più intricato. Sembra è molto figo. Jeff Lemire. Bellino. Disegni molto belli. Snow Angels al plurale. Beh, io spero che abbiate preso appunti, perché qua ce n'è per almeno qualche inverno, non uno solo. Poi siamo a gennaio, quindi avete ancora un paio di mesetti a disposizione, forse un po' meno, un mese e mezzo a disposizione prima che finisca l'inverno, per leggere, guardare, giocare, insomma usare tutti i consigli che vi abbiamo dato. E poi esatto, però sforerete nella primavera, ve lo dico. A un certo punto, a questo punto però, ora non abbiamo fatto inverno, sì abbiamo fatto inverno, neve, quindi dovremo fare poi a primavera autunno e estate. La primavera non so se c'è altrettanta, affascinazione nella letteratura fantastica, chissà, un po' troppo ridente forse nell'immaginario. Ridente. Lì sarà forse un filone sulle piante che vanno fuori i boschi, controllo, direi, sì, una roba del genere. Ci piace, questo mi piace. L'estate, vabbè, il caldo torrido, il deserto, easy. L'autunno non lo so, forse è più difficoltoso l'autunno. L'autunno molto difficile. Però vabbè, ci possiamo inventare. Ma noi... Sì. Libri che ho letto in autunno. Sì, esatto, con quello si porta a casa sempre. Evviva! Bene, quindi ci diamo appuntamento. Allora, attenzione, comunicazione importante, non tra due settimane come sarebbe consueto e giusto, ovvero il 2 febbraio, ma il 2 febbraio c'è una puntata speciale di Nervature. Nervature si allarga, sgomita, si sdraia sulla regia, perché facciamo una puntata speciale per festeggiare le 100 puntate. Ecco, è la centesima. Eh sì, è la centesima puntata di Nervature. Noi non abbiamo minimamente tenuto il conto, ma chi se ne frega. Siamo sicuramente a 100. No, ma comunque boh. E quindi sì, Addu ci terrà compagnia in questa strana e variegata centesima puntata, che sarà un live in diretta con un concerto, insomma abbiamo varie sorprese. E quindi direi che non Tannhäuser si fa da parte, certo, per dare questo spazio. Andiamo al 16. E andiamo al 16, ci risentiamo quindi 16 febbraio, sempre intorno alle 9:30. Chissà di cosa vi parleremo. Abbiamo in cantiere Ballard, di cui colpevolmente non vi abbiamo mai parlato, ma cioè, è come aprire un tombino e un vaso di Pandora. Abbiamo citato Ballard. Citato, certo, ma non vi abbiamo fatto un pippone di 16 ore come meritate e che non ve lo leva nessuno, sappiate. Esatto. No, parliamo di Ballard, dai, direi. Sì, dai, ci sta. E poi abbiamo anche, però, così buttiamo là, altra puntata, sì, con il nostro ospite che ci ha aiutato a scandagliare un po' l'Eternauta e che tornerà a parlare sempre di quel mondo là, di quell'autore, insomma, delle varie opere che abbiamo lasciato indietro. Che figata, non vedo l'ora e niente, quindi una buona serata a tutte e tutti. Ciao ciao. Buon bat. Ciao, è la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto. As it should always be, the foundlings are the future. This is the way. This is the way. This is the way. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. No, io sono tuo padre. È sempre efficiente lanciafiamme. Il mio preferito. Benvenuto sulla Terra. Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.